Io mi sono sempre occupato di falegnameria, dalla falegnameria sono passato alla gelateria, che fa sempre rima, e poi tutto è cambiato una notte, quella famosa notte del 2 ottobre del 2013, cambiato la vita completamente e ora è diventata una missione. L'incontrare studenti, associazioni, chi più ne ha più mi chiede di raccontare a loro e coinvolgerli in questa storia che veramente ha cambiato la vita in bene e in male. È una storia tragica, è una storia che ha visto anche un grande coraggio da parte di persone umili, con una grande laboriosità. Allora, falegname, nello specifico, in relazione a tutto ciò, di cosa ti sei occupato, Vito? Ho allestito fiere, allestito stand. Nella fiera di Bologna ho passato tanti di quei giorni e notti che sono indimenticabili, e poi la vita e il destino mi ha voluto a Lampedusa, ma non lo dico con semplicità, è proprio con cognizione di causa. Il mio viaggio a Lampedusa e rimanere a Lampedusa per a oggi sono 25 anni che io vivo a Lampedusa. E nello specifico tu hai portato un soccorso concreto importantissimo, ci puoi dire qualcosa di più? Vito. Quella notte con altri 7 amici, noi non dovevamo essere lì quella notte perché alcuni di noi avevano degli impegni, e a quel punto avevamo detto: beh, combiniamo per un'altra settimana, un'altra sera, ognuno di noi con delle attività commerciali, e così a mezzanotte, a fine settembre, diciamo che ci si può permettere di uscire a fare un bagno di notte. Ma a un certo punto, alle mezzanotte, è squillato il telefono: siamo in porto che ti aspettiamo. Un altro tassello del destino. Ho raggiunto gli amici, siamo usciti in mare, siamo andati nella baia della Tabaccara e lì siamo rimasti per ore, quando a un certo punto, come sempre, alle 3:30 di mattina, ho detto agli amici: sistemiamo quello che c'è in giro, si è fatta l'ora di tornare a casa. Ma qualcuno dei 7 ha detto: fermiamoci qui a dormire questa notte. Credo in 4-5 anni di uscite in mare ogni tanto non era mai accaduto. A quel punto buonanotte, quando al mattino alle 6:30 sono stato svegliato dal rumore della gamar, ho aperto gli occhi, io dormivo sotto coperto, ho visto che era più buio che luce, ora mi alzo, ma dopo pochi secondi si è spento il motore. A quel punto sono corso immediatamente in cabina di pilotaggio e ho chiesto ad Alessandro, che era lui al timone, cosa sta succedendo, perché si è spento il motore. E lui mi ha detto di stare zitto, Ovi, zittete, e poi mi ha guardato ancora e mi ha chiesto: ma tu o senti bruciare in siciliano i grida di dolore. Io dicevo che erano i gabbiani, abbiamo iniziato a navigare verso il largo, ripeto, più buio che luce, era proprio la prima luce dell'alba e dell'aurora, quando a un certo punto di fronte a me si è presentato uno scenario terrificante a 900 metri dalla costa. Davanti a me 200 persone almeno che urlavano e chiedevano aiuto. E quindi momenti veramente tremendi, momenti in cui è facile perdere la ragione, o momenti in cui arriva una scarica di umanità così forte che permette di salvare 47 esseri umani, tirandoli su a mani nude. Per altri 368 uomini e donne non c'è nulla da fare, ed è una vicenda di grande attualità. In quel momento a cosa pensavi, Vito? In quel momento non c'è stato tempo di pensare a niente, di aver tanta paura, sì, perché la paura da cosa era data? Era data dal fatto che avremmo voluto salvare tutti, ma era impossibile. La mia barca era omologata per 9 persone, noi eravamo già in 8, però dopo aver avvisato la capitaneria di porto e aver detto ad Alessandro: Ale, con la paura non si va da nessuna parte, iniziamo a salvare qualcuno intanto che arriverà la capitaneria. Immediatamente la reazione a voler salvare qualcuno. Alcuni mi chiedono, come me l'hai chiesto anche tu, ma credimi, in quel momento nessuna emozione, ma solo il bisogno e il desiderio di salvare queste persone. Pensavo di salvarne 4 o 5 e poi mi sono ritrovato la mia barca piena di esseri umani. Sono felice di questa cosa e sono molto triste, perché poi, quando è uscita la capitaneria di porto un'ora dopo la nostra chiamata, e ci tengo a sottolinearlo, un'ora dopo non mi hanno permesso di trasbordare sul loro mezzo i salvati e continuare a salvarne altre persone. E questo, credimi, è il momento che mi ha segnato e mi segna tuttora mentre te lo racconto, il non avermi permesso di salvare altre persone.